celtica, quanti infami dovrò picchiare, voglio partire al più presto, con il braccio teso e lo sguardo fiero, a sventolare la celtica. Ho scelto questa vita e non la mollerò più, non so cosa farei, quindi sto vivendo, non mi fermerò mai, non so cosa farei. Voglio andare al corteo di quelli che volano le botte, sai, voglia di gridare e sempre pronto a sventolare la celtica. Qui nessuno mi potrà fermare, voglio partire al più presto, e la tua giornata ribelle fino in fondo a sventolare la celtica. Ho scelto questa vita e non la mollerò più, non so cosa farei, quindi sto vivendo, non mi fermerò mai, non so cosa farei. Mordere delle strade. Mordere delle strade.